che diceva che era pazzo, perché si cambiava i vestiti 4 volte al giorno, portava i capelli sciolti e la barba sempre lunga, i suoi occhiali tondi o un libro nella giacca. Parlava sempre di sé e dei suoi sogni, beveva e scherzava e stava insieme a tutti. Forse era il più povero tra loro, ma sicuramente quello più sincero. Sarà che non mi piace la gente un po' comune, che parla sempre di tutti e mai di sé, perché non ha niente da dire e non prova a raccontare, così d'altronde è più facile anche vivere. E non riesce nemmeno a piangere d'amore per una guerra, un bambino che muore. Tutti zitti a ridire nella stessa casa, senza porte o vie d'uscita. Era umile davvero, donava a tutti quanti la sua umanità, senza maschere e coltelli, né rancori o sguardi strani. Alla fine la libertà era la sua diversità, e non gli importava niente delle chiacchiere più strane. Come un uccello sopra il mare, se ne stava sempre seduto alle sponde d'un prato, in quel verde dove il suo cuore